non ci arriva. E anche a me sta arrivando un basso, non ho capito però con cosa sta trasmettendo. Vabbè, salutalo comunque. Ciao, dai. Chiudo con la cenale, ciao. Seia. Ok, vediamo se Muro si è rientrato. Muro, se ci si batte un colpo. Un bel di propagazione oggi, mi sono un bel di segnali di tutti i tipi. Poi ce n'era uno, 9-10, non so chi era. Avanti che vuole entrare. Questa era probabilmente propagazione, Santiago, se c'è gente parlando sotto. Va bene, dai, di nuovo a te Carlo. Eh sì, c'è propagazione, si sente, se giri anche sugli altri canali qualcosa, eccetera. Però diciamo che l'ora è tarda adesso per metterci a cercare altre frequenze, altre chiacchierate. Comunque mi ha fatto piacere sentirvi un po' tutti stasera. Io adesso devo uscire e andare a ritirare la figliuola che è in girella del sabato sera. Ah, c'è il figlio dei grandicelli, quanti anni c'ha? Finita la partita. 20 e l'altra è 17enne. Sì, giù, è finita, a me ancora non è finita, ma probabilmente finisce adesso, mi sta fischiando. Sta preparando, ecco la fischiata adesso. Anche io ne ho due, una di 24 e una di quasi 20. Sì. Bene Mera, allora, grazie del collegamento. Saluto se è ancora in collegamento Claudio da Muros. Ciao Roberto, ci sentiamo alle prossime QRT per me. Ok, grazie per questo, dai, ci sentiamo in altre occasioni. Ciao, alle prossime, vediamo se Giulio c'è ancora, avanti. Sì, per dire che la partita è finita e dunque si è fatta anche la cena, per cui vi saluto, mi dice tutto non poter aver chiacchierato stasera con voi, per sarà importante. Interessante che ho voluto vedere. La Lazio nel primo tempo diciamo non era a livello del secondo perché ha primeggiato nel primo tempo l'Inter. Però poi la Lazio dopo quel calcio d'angolo con fallo di mano di Bastoni è arrivato il rigore e poi tra l'altro anche l'Inter aveva segnato il rigore. Comunque si è galvanizzata e ha fatto la partita. Insomma ha vinto, dai. Va bene così, non c'è problema. Ok. Vi saluto, ciao Roberto, ciao Carlo, se mi stai ascoltando, e ciao Carlo, e ciao Claudio, da Muros. Salutone a tutti, io ascolto il finalino e dopodiché chiudo per la cena. Ti prendi pure, vabbè, ascolto il finale e poi chiudo, Ehi, a me sa che siamo rimasti solo io e tu, perché Carlo sta andando a prendere la figlia. È entrato un secondino Antonio Grosde, diciamo per salutarmi, perché mi ha fatto piacere anche la condoglianza da parte sua. Poi c'era Luca un attimino e poi ci sono cose importanti, ogni tanto quando parli tu c'è qualche colpo importante, però la passi tranquillamente, ti sento tranquillo. Poi c'era Claudio, vediamo se è rimasto qualcuno. Comunque ci sentiamo alle prossime, buon tutto, buona cena. Giulio, sempre piacere ascoltarti, ciao. Saluta quel cappellone di Grotte, Robert. Ehi, è entrato un attimino a salutare, non so se ci sia ancora, altro ci sia ancora. E poi non ho capito perché stava uscendo così in basso, me l'ha detto, però non si è capito bene. Non sono nel mio QTH, mi ha detto, però ho mantenuto con qualche portatilino da qualche parte, o in macchina. Ho capito, vabbè, mi sto preparando che sto per uscire, ciao Roberto, ciao a tutti, ciao Claudio, Giulio, non mi ricordo l'altro, quello di Luna e Sole, vabbè, ciao a tutti. Sì, ciao, buon tutto, grazie. Vediamo se c'è qualcuno su 10 che è arrivato, avanti, chi vuole entrare? Hola, sezione 10. Ma ci sono solo questi ascoltoni. E beh, Gianfra. Vabbè, ti volevo dire una CS, comunicazione di servizio, 6, 3 più 3, se capisci me al volo, dal centro 3 a destra e 3 a sinistra, gol. Tu parli di come qualità? No, come diciamo sei un po' grasso, capisci me al volo. Troppo larga, la che te manda stai parlando? Figlia. Ma io non ho fatto niente, sto sempre uscendo con la solita radio. Sì, no, non è un problema di radio, è un problema di larghezza. Ti volevo dire un'altra cosa. Qua arrivi più forte del mio vicino che è a 500 metri, che è un po' più in alto di me dall'altro, però c'è malissimo. Però arrivi più forte, figurati che ti sento senza problemi, S9 e senza antenna. Ti ripeto, io a parte che non sono maniaco di mettere potente e c'è con pochi watt. La radio è sempre uguale, il microfono almeno di uno addirittura, perché mi hanno detto che stavo facendo un po' troppo forte di radio, per cui posso cambiare un'altra radio. Aspetta un secondino, ci impiego. Ma dovrete accendere l'altro, qua sono con quello che non c'ha caso di spettro, capito? Ma è fastidiosa, perché? Ma no, personalmente no, era per dirtelo che c'è questa cosa strana che, di nuovo non ho caso prima, magari non c'era, forse effettivamente è troppo alto, non so, non so cosa possa essere, anche perché non so che tipo di radio sto usando, ecco. Però è largo, stranamente è così. Adesso cambio radio, che probabilmente è un po' più salutare, che è presente, io sto parlando sempre mediamente a 50 cm, cambio radio e mi dici se è più piacevole come modulazione. Sì, tu figurati che qua fai 9,40, oltre non va da prezzo. Adesso ho cambiato radio, un po'. Andava un po' di più, perché c'erano dei rumori tra tra tra tra. 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27075, è la frequenza. Dimmi come sto arrivando dalle tue parti. Il segnale è sempre lo stesso. Se mi dai qualche secondo devo riaccendere l'altro. Sì, sì, come vuoi, non c'è problema. Sì, avanti che vuole entrare. Guarda un po' questo tipo di modulazione, questa è un'altra radio un po' più moderna rispetto a quella che stavo utilizzando prima, magari spinge di meno come modulazione, però probabilmente è ancora un po' più stretta. Sì, fammi un bel turno. Passaggio lungo hai detto di fare, allora questo è il canale 10 e la frequenza è 27.75.00, è un apparato di nuova generazione, diciamo, la microfonia è quella che stavo utilizzando prima, l'antenna è una 5 ottavi dalla Mantova e basta, non ho nient'altro da dire, guarda un po' se mi hai copiato bene. No, non ho detto di fare un passaggio lungo, di fare un bel urlo, strilla, fare un passaggio brevissimo, però urla. Hola, 1, 2, 3, prova radio, adesso sono avvicinato anche al microfono. Questo è un fischio per vedere i picchi di modulazione, questa è una tosse. Sono cose veramente strane, quasi urlare quanto vuoi e ti rimani dove sei, di là fate male la figlia, è così, quasi perfetto, non si vede niente. Sarà retta, forse è un apparato molto vecchio, quello che stavi usando. Allora adesso faccio un'altra prova, che vedete questo è un apparato di nuova generazione, apparato discreto, diciamo, non diciamo, adesso ti provo un apparato, al periodo era un top, però è un po' più vecchio, e mi dai il confronto con questo. Prova, la rimango, ecco, tolgo. Tu figurati che neanche io. Prova. C'è l'altro acceso, no? E sul canale, l'ho dovuto spostare sul canale 7. E a momenti non mi sento. Anzi, non metto anche lo squelcio. E non riesco a entrare. Scusami, ero l'LSB, perché l'altro giorno stavo ascoltando quelli in propagazione. Allora, questa è un'altra radio, un po' più vecchia di quella prima, è una radio analogica, diciamo, non digitale come l'altra, sempre la frequenza del 27.075. Adesso proviamo i picchi. Ora, questa è una POS per vedere anche il coso. Questo, i fischi. Ecco, quando fischi anche qua escono le ali, quindi esce il picco. È una voce normale, però è sicuramente migliore a quella che ti dicevo, che invece le ali ce le aveva in continuazione. I segnali più o meno mi sembrano gli stessi. Vabbè, segnali penso che ce n'ho più o meno, dai. Non so se questa spinga un po' di più, non lo so. Però guardando l'indicatore più o meno la stessa cosa. Forse cambia qualcosa di modulazione quell'altra, la prima spingeva molto di più di questa, questa è un altro tipo di radio, dai. Sì, ma la spinta come tipico della M, quando supera il 100%, va a fare queste cose, capito? Cioè più trippa c'hai e più difficoltà hai poi a passare la porta. Vabbè, qua posso operare con tante funzioni, nel senso posso modificare qualcosa magari per non spingere troppo di coso, di modulazione, però vabbè, la lascio stare così, se no io cerco di metterle più o meno uguali le radio, anche se è un po' difficile perché ce ne sono più adatte per la M e altre meno adatte, e poi magari con un microfono una la spinge un po' di più e l'altra un po' di meno. Questa come tipo di radio è la mia preferita, mi piace tantissimo in banda laterale, anche se devo dire ho ascoltato con quell'altra più moderna e mi sono sentito perché mi hanno mandato la registrazione, e quella più moderna sembrava un po' migliore, come hai detto tu, leggermente meno aperta, però in banda laterale parliamo. Guarda, per farti un termine di paragone, sul canale di accente ti sento appena proprio, sento che ci sei ma non sono sicuro che sei tu, idem sotto, questo è per darti l'idea, quindi queste due che ho provato vanno bene tenendo questa modulazione, è proprio un problema di modulatore quando fa questi scherzi, vuol dire che sta andando oltre anche la capacità di gestione dell'apparato di rimanere fermo, ed è così. Però, ripeto, qua se parli tranquillo non c'è niente, se no invece era continuo proprio come se fosse proprio largo. Vabbè, diciamo che probabilmente hanno fatto qualche piccola applicazione, da qua io potrei, volendo posso utilizzare, fare delle regolazioni più fine con questo che sto utilizzando adesso, là solo due funzioni, on off, oppure lavorare sul microfono. Vedo che come cosa sei sempre lo stesso, anche di là l'antenna attaccata 6S7-8, come potenza, prova a disturbare come potenza, non come, lasciando la radio così, vediamo se cambia qualcosa. Come dire a disturbare come potenza, non ho capito. No, mi sono espresso male, non a disturbare, aumentare al massimo la potenza, anche se in arme tu, comunque cosa sia, ne ha sempre poca. No, questa potenza non spinge. Per spingere, guarda, proviamo a vedere se cambia qualcosa, ma non credo proprio. Guarda un po' cosa è successo e penso niente. Aspetta, riprova. 1, 2, 3, prova radio. Non so quanto ne tira fuori questo in AM, non lo so neanche. Beh, c'è ragione, non cambia un po' quasi. In banda laterale, puoi vedere anche, possiamo sentirci in banda laterale, così vediamo se è sporca in banda laterale questa radio. Lo sporco lo puoi controllato in banda laterale stesso o quello che succede in AM? No, parliamo in USB, proviamo e mi dice, mi guardi lo spettro. Ok, dai, prova. Chi è che ha detto siamo in banda? Chi era? Luca, mi pare che è entrato. Come ti sto arrivando lì, Romeo? 9.35 qua. Guardi sempre contro il tuo segnale, no? Sì, non cambia quasi niente. Io come ti sto arrivando? 9.40. Vabbè, questa radio ti spinge in banda laterale, spinge. Gianni, conferma che mi ha detto poco fa che stavano parlando quando mi hanno dato i controlli di Santiago quando stava arrivando a Porto Torres. E io c'ho un 3-4, poi col classificatore d'antenna ti porto quasi a 9. Calcola che sto usando un Icom 725, quindi deve essere un po' più simile, come ha pagato meno. Io uso il presidente normale da base cittadina mi dà di più. No, vabbè, io ti ascolto questo passaggio 8, radio 5, pulito, perfettamente centrato. Ciao fratello Mike. Ciao Gianni. Ehi, siete tutti e due a bomba, guarda, è un po' di più abbastanza. A voglia. mi senti? K che ti sento, avanti. Ma voi siete al circolo, sì? No, sono a casa, che è al circolo. Ah, poi siamo tutti messi pure da presto. No, pure vizio di voi. Non ci vai? Ah, già ci andrò dopo. Ah, ok, no. Noi andiamo via Sardegna. Ok. Positivo cavallo, vediamo un po' com'è la situation. Secondo voi se lo veniamo lì, là. A dopo, anzi. Sì, riprendiamo, facciamo riprendere la Gianfranco, avanti Gianfranco. Chi c'è rimasto qua? Io ci sono. Sì, adesso ho sentito, c'era Gianfranco che ha fatto una prova e poi c'era qualcuno che ha salutato, che è arrivato forte, però non so chi sia. Avanti, chi voleva entrare? Tu come mi ascolti di radio, tu? Non è che sia molto centrato, però già va bene, dai. Tu come mi senti? Vabbè, per sentirti bene mi devo spostare con RIT. E prova a centrarmi, così mi dici la modulazione com'è. Prova a parlare, Roberto. 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27075 la frequenza. Vediamo un po' come mi ascolti, se riesci a tirarmi bene di modulazione. 1, 2, 3, prova radio, avanti Antonio. Ecco qua, prova. E adesso sei centrato anche tu, poco fa eri un po' più in basso, cioè eri a 27075.05. Gappa, là già va bene. Gappa, ma che segnale è aumentato adesso? No, più o meno uguale, ti ascolto a Giuma, è meglio della M con quella radio. Andendi, la massa sta scenda. Cavolo, vedi che c'è un lago del coso che è impazzito. Lago del bazometro che è impazzito. Quello è piccolo, ma dalla laterale quella radio. Comunque adesso mi ascolti il centrato. Ti ho centrato a 27. A 27.07.487. Marico, la radio appena ritoccata, no, questa è una radio nuova, mi ha centrato perché mi ha guardato con le strumentazioni Gianfranco, dice che era tutto a posto. Ok, vediamo se è rientrato Gianfranco, ci sei Gianfranco? Che avanti? Uno ha stannutito, chi è che ha stannutito? Sì, un attimo, ho dovuto spostare l'altro, se non me lo fa impazzire. Non so se sono centrato o sono passato sull'altro apparato. Dovrebbe essere poco spostato, ma di poco. Cos'è Jackson? Non ho capito, Roberto. Il presidente? Sì, il presidente. Prova a parlare, ha orecchio così veloce e sembri centrato. Prova a parlare. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, test. Aspetta che è anche basso. Ecco, adesso forse va un pochino meglio. Ma potete dire 600.00. No, qua c'è la musica, si è levato molto lì, già fa, è salito di 3 santiaghi. Sì, ma perché non uso molta potenza, cioè ci sono molti apparati e non voglio creare dei possibili rientri magari di RF e compromettere i cibituri che sono molto costosi, quindi preferisco andare basso e darmi sul sicuro. Ciao Roberto! Ecco per me, dai, che io vado a fare una cosa, ci sentiamo dopo. Chi è che chiama Roberto? Avanti. Che avanti? Tu mi hanno chiamato, non rispondo. Tu sei punto 00 già fra, perfetto da parte mia. Ah, ok, meglio così. Poi mi sono spostato un po' con l'altro anche perché c'era un'altra missione da fuori. Volevo vedere cosa era. Sembrava parecchio distante anche se è forte. Avanti. infatti ti chiamo Roberto. Ok, chi è rimasto? Ah, tu ci sei ancora? Non ho capito, tu l'affetto si sta allontanando o che cosa? Mi è sembrato di capire che sta andando a mangiare. Ok, va bene, vediamo se il portatore c'è ancora. Gianni, ci sei ancora? Ehi, Roberto, no, Gianfranco sta ripescendendo il segnale, poi ho risalito abbastanza. E io purtroppo non posso, l'ho ripiazzato tutto qua per memoria, per vecchie memorie, credo che altrimenti avrei lasciato perdere. E quindi tutto da modificare qua, ho preso la casa troppo sul punto basso, capisco bene. Allora, visto che sei un po' più lontano, io ti ascolto perfettamente, sei pulita la radio, bella e chiara. Gianni, cambio radio, dammi un rapporto con questa radio e come modulazione, mi interessa non tanto il segnale. Adesso cambio radio e mi dici cosa hai notato. Ci sei Gianni, mi ascolti con questo? Sì, queste quattro volte superiore. Ma meglio questa? Sì, a voi. Ma anche di segnale? Non lo so di segnale se spinge di più. Come modulazione io le ascoltate di altre persone e questa è, questo tipo di radio c'è una modulazione spettacolare, ma laterale, però mi hanno registrato a me con questa e con quella di prima e mi piace più quella di prima, che è una radio più moderna, diciamo. No, questa è due volte superiore, ma non c'è più primo, neanche vicino. Superiore, il segnale è quasi uguale, diciamo, là. Però la radio è tutta. È chiara, pulita. Bella, distanza è bella, ma di luce. Ok, già frate il mic. Sì, sì. Per me inizia a essere già troppo forte. È nato il segnale che sarà sui 960. Tende probabilmente a saturare anche il ricevitore da me. Quindi dovrei praticamente attenuarti per ascoltarti bene. Vado bene o bene come prima, ecco. Vabbè, mi sono un po' anche avvicinato al microfono, adesso sto parlando da più di 50 centimetri, questo è il tipo di tonalità, nel senso di intensità di voce che utilizzo normalmente, guarda se adesso va un po' meglio. Sì, adesso è più tranquilla, ecco. Ma qual è la radio che ti dicevo prima, quella che c'aveva gli alettoni appresso? No, questa è la seconda. Anzi no, scusa, la terza, l'ultima che avevo utilizzato, quella che c'aveva le aree grandi era la prima, poi sono passato una digitale e poi adesso questa è una vecchia radio, anche se all'epoca era una grande radio. Ma va bene, adesso va bene, riprendi Gianni, che tona sei di portatore, sono a posto? No, sono a stazione, basso. Bassa in che senso veicolare? Come? Ho detto bassa in che senso veicolare? Sarebbe veicolare. Veicolare sono quelli in movimento, tipo autocarro, automobile e così via. Oppure una stazione fissa? No, fissa, sì. Sono solo avanti, guarda. Ma è inutile avere avanti, guarda. Cioè, tutti i palazzi da superare, sono troppo bassissimo. La stazione del produttore è bassa, da superare tutto il mondo. È un casino. Non vuol dire a me che devo superare per andare a Porto Torres, devo superare Monte Oro, quindi è chiaro che non è una zona molto favorevole neanche per me, nonostante non sia proprio basso, io sono abbastanza in alto, però Monte Oro me ne mangia 100-150 metri, credo. No, io proprio non vedo niente, sono proprio buio, io sono aperto per mare e basta, poi alle spalle, palazzoni, quindi non vi vedo proprio, capito? Ho capito. Capita. Riprendilo bene. Comunque, manda laterale, questa che sta utilizzando il presidente, è bella forte la radio, Gianfra. Sì, adesso per sfruttare l'invio posto, sto parlando molto vicino al microfono, capito? Sì, veramente forte. Ok, vediamo se c'è qualcun altro, io sentivo chiamare Roberto qualcuno, dice, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare qua su questo canale, avanti. Niente, di nuovo a te Gianni dei portatori. Ehi, ma già fra il presidente, cos'è lì? No, ho capito, sarà per me l'interrogativo. Si ha detto sei Lincoln della Presidente. Sì, confermo, l'ultima versione, il 2, versione 4. Sarebbe, no, adesso non ho capito perché lo sento un po' più male, si sta levando il QRM. No, non ero distratto io, cosa ha detto Gianni? Stavo facendo un'altra cosa, non ho capito quello che hai detto. Ha detto che il presidente è uno solo, il Lincoln però, digitale con osservazione, eccetera. Ha detto se digitale come cosa? Sì, è un nuovo apparato nuovo, ovviamente già in tecnica più evoluta rispetto ai vecchi. Comunque c'è grande, alla grande sia in lambda e in corto, in AM che manda la pedala. Però io il dico quello vecchio, posso dire che è perfetto, bisogna continuare da 26 a 30 ed è una bomba. Sotto, logicamente è molto figlio essere tipo, è come radio, come tipo. Logicamente ti affari un turner e avrai ottimi risultati. Lo turner non ce ne sono nessuno, vai. Tu credo che stai usando il microfono originale, così è già fra conferma. Sì, è il suo in versione originale, senza essere toccato, così come l'ho ricevuto, sto trasmettendo. L'antenna è una Game Master, quindi a basso rumore. SVR praticamente a livello zero. Quindi sì, è carino l'apparato, lascia tante cose. No, ma ci hanno fatto la storia della 27 Lincoln, mi ha levato una marea di tanti, tutti i presidenti, non so quanti ce n'erano, adesso non so se l'hanno fatto anche a Cotto, a Obama, presidente Obama, non so se l'hanno fatto, però l'hanno fatto da Lincoln, Henry, quanti ce ne sono, vabbè, non mi vengono gli altri. E quasi tutti ci sono, partono da 40 canali, una volta da tutti, è vero. Però signori, io vi devo lasciare adesso, dai, vado a mangiare qualcosa, dai, grazie della chiacchierata, saluto a Gianni più lontano, ben sentito, fatti sentire vari più spesso, ciao Gianfranco e restate amici qua sul canale 10, ciao ciao, quello è da parte mia. Sì, ok Roberto, allora buona giornata per domani, e buona cena se avete ancora a fare. Avanti Gianni, ancora un passaggio e poi anch'io ti saluto. Forse avete parlato in due, vai Gianni. Ho detto che tanto quando sono in camion già mi sento la pedania e la bomba, quindi non c'è problema. Ok, di nuovo ciao ciao a tutti e due. Ok, ciao Roberto. Ciao Gianni, anch'io scappo via che è già tardi. Buona serata anche a te, alle prossime. E a Gianfra, chiudo anch'io, sto provando un condizionatore che non mi piace assai. Ok, a tutti, voilà, ci sentiamo. Buona serata. Ok, buona serata anche a te, alle prossime. Ciao ciao.